Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001. Per quanto riguarda la radio, ci ascoltate su queste frequenze, ma ci potete ascoltare anche in streaming sul sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta. Siamo all'appuntamento con il cinema Visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sulla trasmissione di oggi, sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale le trovate sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E con un abbraccio forte alla nostra Ottavia Monicelli andiamo a cominciare questa puntata di oggi, giovedì 21 gennaio 2016. Eccoci con Matteo Corradini, coautore e interprete del film The Pills, sempre meglio che lavorare, in uscita in sala oggi, giovedì 21 gennaio. Matteo, benvenuto a Visionari, Radio Onda Rossa. Grazie mille cari, buona giornata a tutti, buon 21 gennaio a tutti quelli, a tutti quanti, e poi un ringraziamento particolare a chi nella giornata di oggi sceglierà di vedere il nostro film. Siamo molto increduli che questo giorno alla fine sia arrivato, Senti, avete tentato anche l'operazione marketing di far morire il regista, non ci siete riusciti, però secondo me può avere ancora un buon effetto di traino. No, come no, ci siamo riusciti a farlo morire, cioè mediaticamente parlando Luca è morto. Ah, poi okay. Se il film va bene Luca lunedì sarà resuscitato. Quindi comunque dopo tre giorni Luca resuscita, film, quindi anche un po' un ricatto col consumatore, capito? Se volete che Luca resusciti andate a vedere il film. Senti, allora Matteo, come lo racconteresti in breve a chi ci ascolta? Allora, se chi ci ascolta è della nostra età, quindi all'incirca c'è una trentina d'anni, io vi consiglio vivamente di andare a vedere il film, perché parla di tematiche veramente molto molto care a chi sta vivendo questo tempo da trentenne. Se si hanno più o meno anni, comunque consiglio di andare a vederlo, perché fondamentalmente parla di cioè non vedrete un film che parla di queste cose tanto facilmente, in questi modi tanto facilmente. Dovrei spoilerare la trama, ma non lo farò. Bravo. Io consiglio, ragazzi, se andate a vedere il film di The Pills vedete un film sicuramente diverso, sicuramente non usuale per il panorama italiano, e soprattutto secondo me vi farete, cioè, delle risate ve le fate sicuramente. Senti, una domanda tecnica, io intanto l'ho visto e per questo siamo qui anche a parlarne. Una domanda tecnica, come mai non avete usato il 3D? No, c'è il 3D, come no? Allora, Luigi è fatto in 3D. Ah, quindi, vabbè, Luigi non avevo... Quello è 3D, pensavi che... Io l'ho visto senza occhialetti, allora, sì. No, quello Luigi è fatto in computer grafica, se ti metti gli occhialetti esce anche fuori dallo schermo e ti viene a far caffè a casa tua. quindi, è così, no, vabbè, a parte gli scherzi, mi immagino che non sia una domanda seria, ma anche perché, chi è che ha affezionato al 3D? Quante sono in più le persone che quando prenotano gli spettacoli al cinema chiedono, ma non c'è il 3D, vero? Perché a me te ne fa venire la nausea, non lo so, non mi convince il 3D. Senti Matteo, allora lo stile ricorda molto le strisce di Peanuts, Charlie Brown, che in Italia al cinema furono riprese in maniera molto interessante da Ecce Bombo, da Nanni Moretti, come stile cinematografico. Ecco, sì. Passare dai vostri piccoli corti che in rete hanno funzionato molto al lungometraggio di finzione, come è nata l'idea e come avete tentato poi di svilupparla? Allora, noi abbiamo cercato di più che altro coniugare, di mixare due nostre aspirazioni, cioè una era quella di intrattenere anche in maniera specistica e l'altra è quella di fare cinema. Quindi secondo me nel film, poi in momenti diversi del film, sono vive entrambe le anime, perché ci saranno dei momenti di forte impronta cinematografica, come ci sono dei momenti che richiamano moltissimo la serie. Quindi sinceramente non abbiamo dovuto in realtà rinunciare né all'una né all'altra, è stato più che altro un gioco di scegliere i momenti in cui potevamo giocarci l'una o l'altra carta. Ecco, ad esempio i critici cinematografici più spinti, la nostra aspirazione in alcune parti del film più web non è tanto piaciuta, ma comprensibilmente, ma che ce frega, aggiungerei io, perché no vabbè, ma io capisco, certo. Però nel senso, di base era voluta, cioè, quindi se devo essere criticato per una cosa che ho fatto coscientemente, ci può stare, dai, cioè comunque alla fine è una critica comprensibile, però a noi piaceva così, diciamo così. Sì. Oh, siete dei combattenti della liberazione dal lavoro, ecco, che è uno dei grandi temi dei movimenti di liberazione dagli anni 70, ma da anche prima, rispetto per esempio all'Italia. Però come avete risolto per esempio il problema del reddito? Guarda, l'abbiamo risolto come Moretti. Non mi ricordo, forse Io sono un autarchico, c'è questa scena in cui lui alza il telefono e chiede i soldi ai genitori. Noi non vogliamo fare. Poi se ci stanno i figli di papà, quelli veri, che dicono no, io sono autosufficiente, quando in realtà c'è il papi che gli passa l'assegno. Noi, la nostra voglia di non lavorare deriva dal fatto che abbiamo passato, anche da laureati, abbiamo passato comunque un 4-5 anni un po' critici a causa della mancanza del lavoro, e ovviamente siamo stati supportati dai nostri genitori anche nel fare delle scelte stupide tipo The Pills. Però adesso insomma gli sta tornando tutto ai nostri genitori, credo che gli paghiamo il mutuo, no dai, non è vero, avranno delle belle soddisfazioni, insomma. Sì, avranno delle belle soddisfazioni, ecco, quindi spero che comunque il fatto che ci hanno supportato in passato non hanno l'impressione che gli sia ritorto contro. Senti, dal web alla televisione al cinema, dov'è l'ambito in cui vi trovate meglio a lavorare? Guarda, io penso che il top per The Pills sia il web, perché è proprio il nostro, sì, è il nostro, giochiamo proprio in casa sul web, ma anche perché il web ti permette una commissione di così tante ispirazioni, linguaggi, modi di scrittura, che ovviamente, cioè, se vuoi fare un lavoro veramente veramente ispirato, puoi farlo anche al cinema, una cosa del genere, però è un luogo che è meno avvezzo a questo tipo di variazioni. Il web sicuramente, non dico, non voglio usare la parola più libero, perché ha proprio rotto la libertà del web, ha un po' rotto, però comunque ti permette sicuramente di fare un po' più come te pare. Senti, ecco, a proposito dei corti in rete, come materialmente, come lavorate, come nasce l'idea e come la sviluppate? Guarda, nasce in maniera molto molto naturale, ne parliamo tra di noi, magari arriva uno che dice: ragazzi, ho quest'idea qua, succede questo e questo, che ride, cominciamo a parlarne, dopo un dialogo che ne so di mezz'ora, un'ora, ne può venire fuori un soggetto. Alcune volte, quando non ce va di scriverlo in sceneggiatura, rimane quel soggetto e giriamo direttamente quel soggetto, altrimenti se c'è necessità la scriviamo, ma all'inizio manco questo, adesso siccome stiamo cercando di darci un tono scriviamo anche le sceneggiature, ma vabbè, dai, manco sempre. Senti, quindi continuerete in rete? Guarda, noi non abbiamo mai iniziato ufficialmente, quindi non finiremo mai ufficialmente. Bene, quindi è giusto così, è giusto così. Nel senso, non c'è un inizio ufficiale come non ci sarà mai una fine ufficiale. Magari noi per adesso, per un anno non ce va e non lo facciamo, magari tra una settimana buttiamo giù 10 idee tutte fighissime e le giriamo in 2 giorni, non lo so, veramente non lo so. Può essere tutto. Nel corso del tempo il gruppo si è allargato, ristretto o altro? Guarda, il gruppo è rimasto più o meno lo stesso, si è ristretto giusto il nucleo, si è più definito, questo sì, che siamo io, Luigi e Luca, però comunque gli altri rimangono dei nostri fedeli collaboratori, ma poi tra l'altro neanche per volontà di qualcuno si è ristretto a noi, era semplicemente una necessità pratica che era quella di gestire magari più direttamente alcune cose, ma non è stato un passaggio obbligato, diciamo. Questo. Allora, da oggi nelle sale in quante copie esce The Pills? Esce in 350 copie per tutta la durata della programmazione, il primo weekend non lo so, però la portata totale della programmazione è 350. Beh, signori numeri. No, fa, non è che sei matto. Assolutamente sì. Bene. Allora, Matteo, speriamo di sentirci presto, anche perché ho in mente, già l'avevo fatto un po' di tempo fa e avevo avuto modo poi di sentire Luca, avevo mandato, siccome ho pure un programma di radioteatro, l'audio di alcuni vostri corti, e funziona anche via radio. Sì, alcuni dialoghi. E magari avremo modo quindi di risentirci in quell'occasione. Nel frattempo un abbraccio e in bocca al lupo. Ti ringrazio, Federico. Ciao, a presto. Grazie mille. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao anche a te. Ciao. Matteo Corradini dei The Pills sull'uscita in sala oggi giovedì 21 gennaio del loro film The Pills, sempre meglio che lavorare. Oh, non era in scaletta, però il comunicato mi è arrivato ieri in giornata, ho deciso di parlarne anche perché c'era un po' di tempo a disposizione. Sto parlando di un'iniziativa che si svolgerà alla Casa del Cinema con una prima proiezione già questa domenica per le persone sorde. Ne parliamo con Giorgio Gosetti della Casa del Cinema. Ci sei, Giorgio? Sono qua. Eccoci, ben ritrovato. Come va? Tutto bene? Abbastanza, siamo molto festosi e allegri perché abbiamo Ettore Scola con noi per 2 giorni. Sì, siamo sì. Contenti che questo succeda. Senti, ecco, intanto io comincerei parlando anche di questa iniziativa legata ad Ettore Scola che riguarda per 2 giorni l'ambito della Casa del Cinema. Giorgio. Ma sì, significa aprire le porte e avere una meravigliosa, strabocchevole folla fatta da tutto il cinema italiano e da tantissime persone normali che amavano Ettore Scola e che amano il suo cinema, che viene in flusso proprio ininterrotto a trovarci da stamattina alle 10 e durerà per tutta la mattinata di domani, e poi alle 3 del pomeriggio. Sono così tanti, sono così belli, sono così felici, perché in fondo c'è perfino il sole fuori, quindi è un giorno bello, non è solo un giorno di rimpianto e di cordoglio, che abbiamo deciso che il breve saluto pubblico che chiuderà questa 2 giorni alla Casa del Cinema lo faremo nell'arena esterna, aperto a tutti. Senti, un tuo pensiero personale rispetto alla tua esperienza è legata alla storia e al cinema di Ettore Scola, Giorgio? Sono stato un suo spettatore fedele, mi è tanto piaciuto e mi commuovo e mi metto a ridere e mi incazzo e mi indigno e ho voglia di partecipare ogni volta che rivedo un suo film. Perché questo ci ha restituito, sì. L'orgoglio di essere un paese che sa guardarsi negli occhi. Giorgio, arriviamo all'iniziativa che prende le mosse dalla giornata di domenica 24 con una rassegna dedicata alle persone sorde. Ecco, raccontaci un po' di questa nuova iniziativa. Questa iniziativa si deve all'entusiasmo e alla voglia di mettere a disposizione il cinema italiano recente, il cinema italiano che viaggia nel mondo, proprio un suggerimento, una spinta che ci è arrivata da Istituto Luce Cinecittà, in particolare da chi si occupa della promozione all'estero dei film italiani, e che noi abbiamo raccolto con grande felicità, potendo contare su un lavoro fantastico fatto dall'Ente Nazionale per i Sordi, che si è messo veramente a disposizione, perché in realtà in troppi posti in Italia dove non c'è nemmeno una legge che regoli e vincoli anche la distribuzione in questo senso, troppo pochi, se non per iniziative spontanee, si preoccupano di un servizio di accessibilità normale e civile come in tutti i paesi del mondo, per cui chi non sente possa lo stesso avere voglia di vedere il cinema. Alcune iniziative spontanee, ripeto, ci sono in giro per l'Italia e perfino qui di fianco a noi a Roma, dove il cinema dei piccoli dedica delle proiezioni ai suoi. Però ci sembrava logico che un posto come la Casa del Cinema creasse una serie di appuntamenti concentrandosi in particolare sul cinema italiano recente e quindi invitando di volta in volta i registi, gli attori, i tecnici che partecipano ai film a presentare il loro lavoro a chi non sente e poi anche tante volte a rispondere alle loro domande. Cominciamo quindi domenica, avremo una prima serie di 4 appuntamenti, sì. Sempre la domenica mattina, okay. E poi speriamo di poter continuare, francamente. Ok, quindi un primo ciclo è di quattro film, sì, dell'ultima stagione, praticamente. Esatto, okay. Cominciamo con Gli ultimi saranno gli ultimi, che mi sembra anche un titolo sufficientemente emblematico, sì. E poi proseguiamo con Alaska e andiamo avanti. Immagino che tutto il programma sia consultabile sul sito internet della Casa del Cinema. La Casa del Cinema, www.casadelcinema.it, e naturalmente è ovvio che il nostro primo pubblico sono proprio i sordi, ma è anche ovvio che, come è normale alla Casa del Cinema, nella misura dei posti disponibili l'iniziativa sia aperta a tutti, anche perché chi è sordo spesso ha intorno una famiglia, degli affetti, degli amici che magari invece ci sentono. Benvenuti fra noi. Bene. Giorgio, allora un abbraccio e ci sentiamo presto per le novità. Grazie mille, ma sapete, e lo dico in particolare a chi ci ascolta e chi segue la vostra rubrica, questa è la casa di chi fa il cinema e ama il cinema, quindi le nostre porte sono sempre aperte. Bene, un abbraccio, a presto. A presto a voi. Giorgio Gosetti della Casa del Cinema, direttore della Casa del Cinema, sulla rassegna dedicata alle persone sorde che prende il via questa domenica con un primo ciclo di 4 film dell'ultima stagione cinematografica, con appuntamento sempre la domenica mattina. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Eccoci con Valerio Ialongo della Rete degli Spettatori per parlarci della conferenza stampa appena terminata, la Casa del Cinema contro la decadenza culturale, che segna anche l'avvio della loro nuova stagione. Ci sei, Valerio? Ben ritrovato a Visionari. Ciao, come va? Tutto bene. Insomma, grandi lavori, immagino che sia andata anche bene. Raccontaci un po' di questa giornata, Valerio. Ma intanto volevo darti così un po' il sentimento di chi come noi erano lì oggi a rendere anche omaggio al maestro Ettore Scola. Sì. E noi abbiamo preso la decisione, anche dopo aver parlato con Ugo Gregoretti, con altre persone molto vicine a Ettore, di non annullare questa conferenza, perché abbiamo pensato che questo era un po' quello che ha sempre fatto Ettore, cioè non solo fare dei bellissimi film, ma anche occuparsi di tutto ciò che ha a che fare con la cultura e il cinema in Italia. Quindi abbiamo voluto rendere testimonianza di questa passione che Ettore ha sempre messo nelle sue attività, sì, diciamo così, non di regista ma di uomo di cultura, sì, e politico. Sì, sì, sì, sì. E quindi è stato un clima molto caldo e direi abbastanza inusuale, perché c'era tantissima gente e si sentiva veramente parte di quello che è il cinema italiano, che spesso invece è un po' disperso, no? Un po'. E abbiamo annunciato la nuova selezione del 2016 e i giudici, diciamo così, la giuria che ha scelto questi nuovi film erano Paola Casella, Paolo Mereghetti, Maria Pia Fusco, Giona Nazzaro e Silvana Silvestri, quindi una giuria di tutto rispetto, insomma. Sì. E direi che quello che emerge è appunto una qualità di film che magari vincono premi ai festival, hanno importanti riconoscimenti, ma poi non riescono addirittura a volte neanche ad uscire in sala ormai. Sì, perché sì, sì. Come sai bene, le sale chiudono e ce ne sono sempre meno, oppure appartengono a circuiti che non permettono l'ingresso di film, a film indipendenti, ecco. Sì. Insomma, quindi questa, se vuoi ti do già i titoli, non so, dimmi tu. Diciamo allora, quanti titoli consiste questo avvio di stagione e che cadenza avranno? Allora, i titoli sono 10 film di finzione. Sì. E 3 documentari. Ok. E diciamo ci sono esordienti o nomi già molto conosciuti e premiati come Pietro Marcello o Giuseppe Gaudino, o c'è l'opera postuma di Claudio Caligari, Non essere cattivo, c'è il film di Vincenzo Marra, La prima luce, ci sono anche appunto film come Arianna di Carlo Lavagna o Antonia di Ferdinando Cito Filomarino, o diciamo conferme di nomi molto noti come Bagnoli Jungle di Antonio Capuano, Banat, Il viaggio di Adriano Valerio, e una grande opera collettiva come Le Ponte Sarajevo di un collettivo di registi europei, tra cui il nostro Leonardo Di Costanzo e Vincenzo Marra. Quindi abbiamo diciamo noi circa ormai un 130 sale sul territorio nazionale che collaborano stabilmente con la rete degli spettatori e con i quali già dalle prossime settimane creeremo dei piccoli eventi, perché la nostra formula è quella di portare i film nelle periferie, in provincia, dove altrimenti questi film non arriverebbero proprio, non troverebbero spazi. E spesso il nostro lavoro, addirittura ancora prima di convincere gli spettatori, è quello di far conoscere questi film agli esercenti che molto spesso, come saprete, vengono programmati ormai dall'alto, dalle distribuzioni. Sì. Che decidono loro quali film debbano proiettare, hanno pochissima libertà, e noi cerchiamo di in qualche modo scardinare questo tipo di meccanismi piuttosto, diciamo così, contro la libera concorrenza, ma contro anche il diritto degli spettatori di vedere film il più possibile vari, non soltanto, ecco, le commedie che vanno benissimo e che magari risollevano le sorti di una sala, ma ecco anche la possibilità di avere un racconto vario e appassionante e di diversi toni e linguaggi di questo paese, insomma, ecco. Quindi credo che la cosa bella di questi film è che hanno in comune tutti quanti una grande ricerca di linguaggio, anche un desiderio di raccontare l'Italia attraverso punti di vista che non sono quelli usuali. Sono a volte film sorprendenti, a volte film magari piccoli, ma di grande livello anche culturale e non solo, insomma. Senti, data la vasta adesione delle sale per il paese al vostro progetto, ogni film quindi avrà a disposizione più sale e più giorni di programmazione? Sì, diciamo che questo poi è appunto il lavoro di Claudio Storani, che ormai ha appunto un contatto molto umano, molto diretto con gli esercenti, e diciamo la nostra formula ormai è quella di creare un po' quasi una tournée teatrale, insomma, se si può dire, cioè nel senso che cerchiamo di creare dei piccoli eventi in cui l'arrivo del regista, di un autore o anche di un attore a volte fa la differenza in un piccolo centro o in periferia, perché crea la possibilità di un contatto, di uno scambio. E quindi cerchiamo di organizzare stiamo organizzando questi giri con dei registi che accompagnano i loro film, e in questo modo uniamo diverse sale e a volte lanciamo anche delle piccole tenniture che, sì, che in periferia e in provincia sono un po' difficili, ma a volte riusciamo anche in questo, perché se il film è ben lanciato, poi se è un film interessante la gente risponde, perché poi alla fine bisogna anche smentire quello che si pensa, che magari in periferia o in provincia non c'è curiosità, non c'è interesse per questi film. In realtà poi quando si riescono a far arrivare, quando c'è una passione dietro, come quella degli autori che l'hanno fatta, ovviamente la gente risponde e assolutamente viene a vedere questi film con grande curiosità e interesse. Senti, in molti casi ci sarà anche la possibilità di incontrare gli autori al termine della proiezione o prima? Assolutamente, diciamo che nella maggioranza dei casi noi cerchiamo in passato e anche quest'anno chiediamo la disponibilità più ampia agli autori e ai registi, proprio perché sappiamo per esperienza che specialmente per gli esordienti, ma anche per autori più noti, la presenza in sala, l'incontro con il pubblico fanno la differenza. Ma perché? Perché ormai purtroppo c'è stata come una, non so come possiamo dire, una specie di distacco tra l'offerta televisiva e di questo tipo di lavori, di questi film un po' più interessanti che non passano in televisione, eccetera. E quindi di conseguenza il pubblico, specialmente quello non diciamo così delle grandi città, ma anche quello delle grandi città, a volte questo pubblico non ha gli strumenti per conoscere questi film, non sa neanche che esistano. Magari non seguono i festival e quindi non hanno un contatto diretto con quello che magari sono realtà interessantissime di film che invece meritano di essere visti, e che magari sono molto più originali del film americano, del filmone americano che ha dietro le corazzate, le portaerei e poco più, però sì, insomma, sì, no? Quindi sì, sì, sì. A volte un film diciamo così che riguarda la nostra terra, la nostra cultura, la nostra identità, anche se piccolo, può darci delle sorprese e può emozionarci molto di più di qualcosa che in fondo ci riguarda molto da lontano. Insomma. Per tutti i dettagli del programma ci dai gli estremi internet? Sì, dunque stiamo appena rinnovando il nostro sito, ma credo nel giro di una settimana sarà perfettamente operativo il nostro nuovo sito. Comunque l'indirizzo per ora è sul vecchio sito, rimarrà lo stesso, ed è www.retedegliespettatori.it. Vorrei aggiungere una piccolissima cosa in corsa che è successa oggi, perché c'erano Daniele Lucchetti, Andrea Purgatori, Maurizio Sciarra e molti altri registi della selezione, come Arianna, come Carlo Lavagna, il regista di Arianna, ed altri, perché diciamo è partita oggi anche una grande iniziativa che noi chiamiamo fuori orario, cioè l'iniziativa di portare dei film nelle scuole italiane, sì, film di grandi autori come Rosi, come Bertolucci, che abbiamo potuto avere grazie alla collaborazione di Minerva Pictures, e abbiamo avuto su questa iniziativa un'adesione direi quasi commovente, perché da Bertolucci a Virzì, da Bellocchio a Sorrentino, da Daniele Lucchetti a tanti altri che hanno dimostrato la propria disponibilità ad andare nelle scuole per accompagnare questi grandi capolavori del cinema italiano che meritano di essere studiati e conosciuti dalle giovani generazioni, perché credo che questo sia ecco quello che personaggi come Scola e come Rosi ci ricordavano sempre. Che appunto un paese che non ha memoria, non ha futuro, si dice, è diventato una banalità, ma non si sa bene perché nelle nostre scuole si continua a studiare Foscolo e Manzoni, ma non Rosi, non Scola, non Fellini, che come livello internazionale di riconoscimento artistico, culturale, sono ben al di sopra di Manzoni e di Foscolo, perché sono nella storia del cinema internazionale. Hanno fatto dei capolavori che si studiano in tutte le scuole del mondo, e oggi si diceva paradossalmente Ettore Scola è studiato nelle scuole, nei licei francesi, ma non in quelli italiani. Cioè, è un paradosso che speriamo di poter presto sfatare. Valerio, io ti ringrazio, ci hai dato tutte le indicazioni, un in bocca al lupo. Crepi il lupo e a presto. Ciao, ciao, ciao. Valerio Ialongo della Rete degli Spettatori sulla conferenza stampa contro la decadenza culturale che si è svolta stamane alla Casa del Cinema qui a Roma e che ha lanciato il programma della nuova stagione della Rete degli Spettatori. Eccoci con Vieri Razzini di Teodora Film sulla distribuzione del film Il figlio di Saul in uscita in sala oggi giovedì 21 gennaio. Vieri, ben ritrovato. Buongiorno. Tutto bene? Benissimo, voi? Bene, bene. Tra l'altro un film al quale abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana, un film che è nella cinquina degli Oscar per il miglior film straniero. Sì, beh, insomma, ormai la lista dei premi importanti è lunga, perché è cominciato a Cannes con il Gran Premio della Giuria, poi c'è stato adesso il Golden Globe, diciamo, cioè, a parte in America è stato ricoperto tutti i premi della critica possibili e immaginabili di tutte le città, insomma. Poi vedremo. Tanto vedremo. Non è che il valore del film poi dipenda da questo, il film è assolutamente straordinario, come hai visto. Quindi, sì, sì, ecco. Come lo descriveresti in breve a chi ci sta ascoltando, Vieri? Ma descriverlo secondo me non si può, cioè, si può dire di che cosa si parla. Sì, sì. Allora si parla di un Sonderkommando di Auschwitz. I Sonderkommando erano dei gruppi di prigionieri ebrei costretti a portare a morte i loro, diciamo, correligionari, insomma la loro gente. Quindi era questa cosa spaventosa per cui i nazisti non facevano il lavoro sporco, condannavano altri a fare il lavoro sporco, cioè quello delle camere a gas, tutto quello che concerne le camere a gas, la cremazione e perfino la dispersione delle ceneri. Quello che è assolutamente straordinario in questo film è il modo di rappresentazione, perché sapete che sono state sempre delle discussioni anche sulla liceità. Sì. Di fare della finzione su una cosa così terribile, così insomma sulla Shoah. E io in gran parte sono anche d'accordo, ma Laszlo Nemes, che è questo giovane regista ungherese, tra l'altro all'Opera Prima, ha trovato un modo veramente eccezionale, perché è potentissimo e nello stesso tempo è estremamente pudico. La macchina da presa non... Allora, intanto lui sceglie il formato quadrato, il vecchio formato quadrato dello schermo. Sì. Bene, quello che chiamiamo adesso comunemente 4/3. Proprio per non allargare lo sguardo sull'orrore, cioè non è una trovata, diciamo, è già una presa di posizione molto precisa, espressiva. E infatti poi l'orrore viene fatto balenare, intuire più che esposto. Sì. La macchina da presa è praticamente incollata a questo protagonista straordinario che si chiama Geza Rorig, tra l'altro, è ripartito ieri dall'Italia, ho fatto una conferenza stampa con lui, e lui in realtà è anche uno scrittore, poeta, è un cervello di prim'ordine. Perché in effetti è anche, e questo lo dico perché è difficilissimo, in realtà lui regge 1 ora e 3/4 quasi sempre in primo piano sullo schermo e si fa passare, è impietrito e nello stesso tempo è estremamente espressivo, quindi lì bisogna essere veramente... Dunque, insomma, il figlio di Saul è sostanzialmente questo, è proprio l'inferno di Auschwitz con questo lavoro che viene fatto meccanicamente, freneticamente, proibendosi di sentire da parte di tutti, no? E finché lui però crede di riconoscere in un ragazzo giovane suo figlio, e quindi il suo scopo in questa in questo caos veramente infernale, mentre si sta progettando un'evasione dal campo, il suo, proprio la sua unica ragione di sopravvivenza diventa di dare una degna sepoltura a questo corpo di questo giovane, di questo ragazzo. Sì, che altro dirvi? Beh sì, no, sei stato abbastanza insomma, ci hai spiegato abbastanza bene, credo. Sì, io lo trovo straordinariamente non commovente nel senso tradizionale, perché anzi si tiene lontanissimo dal, sì, da ogni patetismo, sì, da ogni sentimentalismo. Non, proprio no, è un film che non cerca le lacrime né l'adesione facile, però è una cosa di una potenza veramente straordinaria, è un film indimenticabile. Io non avevo mai visto nulla di simile. Sì, sì, sì. Tra l'altro questa cosa dei Sonderkommando se ne è parlato anche abbastanza poco fino agli anni Ottanta, anche perché i rari superstiti, rarissimi superstiti, hanno avuto delle difficoltà orribili a parlare della loro, chiamiamola, esperienza, se così si può dire. Sì, sì. Ci hanno messo, alcuni ci hanno messo dei decenni prima di poter aprirsi sulla, perché tra l'altro questi qua, che erano a loro modo, avevano dei piccoli privilegi, nel senso che mangiavano un po' meglio, eccetera, perché dovevano lavorare, dovevano essere abili al lavoro, diciamo, però poi a loro volta venivano sterminati ogni 4 mesi, perché non dovevano restare testimoni, no? Secondo non ci dovevano essere i testimoni del massacro, sì, della, sì, sua, sì, quindi insomma. No, io l'ho trovato veramente innovativo e impressionante per questa sua scelta estetica di stare sempre addosso al protagonista, come dicevi giustamente tu, allarga raramente l'ottica su quello che è l'ambiente circostante, ma noi lo intravediamo e lo intuiamo. Ed lo intuiamo, è molto affidato al suono, no? È molto, c'è un uso, esatto, del suono, esatto, che è straordinario. Esatto. E questo muoversi in questo inferno è anche forsennato, che è, bravo, sì, è proprio così, c'è questa frenesia che ti, io la prima volta che ho visto il film sono rimasto, in un minuto ero già catturato, ero catturato da questo ritmo frenetico dell'azione che non mi aspettavo proprio. Sì, sì, infatti anche questa è una scelta estetica completamente innovativa rispetto alla rappresentazione dell'Olocausto. Sì, sì. Senti Vieri, all'estero immagino, tu dicevi di tanti premi già ricevuti, e è stato un caso anche all'estero, immagino. In tutto il mondo. Sì, sì. In, sì, realtà, sì, veramente è un caso in tutto il mondo, perché è una, insomma, è più unico che raro che si possa arrivare a questo tipo di messe, che il solo pensare da parte di una persona oltretutto giovane, è vero che ha una storia familiare drammaticissima, eccetera, però insomma adesso Nemes ha 38 anni, quindi la sola idea di pensare a un'immersione di questo genere. E poi, lo accennavi tu, c'è proprio questa coincidenza fra estetica e morale, per una volta, sì, cioè sono due cose che coincidono perfettamente in questa rappresentazione. Senti, quindi, insomma, sì, sicuramente è un film che segna un punto anche importante nella storia del cinema. Sì, direi proprio di sì, sì. E poi lui, ti devo dire che mi ha particolarmente colpito questa frase icastica brevissima che lui ha detto quando ha ringraziato per il Golden Globe, e ha detto: questa è una faccia dell'uomo e è bene che non venga dimenticata. Senti, sì, sì. Senti Vieri, in quante copie in sala? Adesso 40 e poi vediamo. Bene, bene, speriamo ogni volta, bene. Sai, da questo punto di vista ogni volta è una scommessa, però insomma questo è come un... quello che mi ha colpito moltissimo, che mi ha raccontato Geza Röhrig, è che in Germania il film non è ancora uscito e stanno aspettando, nessun distributore indipendente se l'è preso, ah. E stanno aspettando la Sony, che ce l'ha in America, insomma lo distribuirà, ma stanno aspettando l'Oscar eventuale, aggiungo io. Bene. Allora speriamo bene, e ti do anche una buona notizia, Vieri, perché sai che noi ogni fine anno e inizio anno nuovo facciamo le cinquine dei film usciti in sala che più ci sono piaciuti. Ho messo insieme una super squadra, quest'anno eravamo una ventina, eravamo 20 in ordine alfabetico, da Alberto Crespi per finire a Roberto Silvestri, e tra i primi 10 c'è Forza Maggiore. Pensa. E questa è l'indicazione che ti e non so. Perfect Day, per esempio. No. Che cosa strana. Comunque sì, era un film molto curioso, era un bel film, decisamente. Io ti abbraccio. Bene. E ci diamo appuntamento. Anch'io. Alle prossime. Grazie tante. Ciao. Presto. Vieri Razzini di Teodora Film sulla distribuzione di Il figlio di Saul, in uscita in sala oggi giovedì 21 gennaio. Eccoci con Silvano Agosti, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Silvano, buongiorno. A tutti e anche agli altri. Tra l'altro mi dicevi che tu sei stato una voce di questa emittente. Sì, ma qualche cosa come per 6-7 mesi. Bene. Nel 1971. No, no, è 77. 77. Senti Silvano, allora esce un tuo nuovo lavoro, un documentario questa volta, Il fascino dell'impossibile, che un po' sembra ricalcare la tua avventura cinematografica con l'Azzurro Scipioni. Partiamo proprio dall'Azzurro Scipioni, Silvano, questa esperienza che ormai ha diverse decadi. Dunque ha 30 anni. E risale al tempo in cui tutte le sale fuori chiudevano, erano passate metri, non so da quante, erano ridotte a 60 sale. Dopodiché appunto mi dicevano: ma com'è che tu apri e che tutti chiudono? Io gli ho detto: ma la mia non è una sala di quelle che chiuderà mai. Perché io farò due sale. In una metterò 360 capolavori del passato. Perché? Perché chi non conosce il passato subisce, o addirittura peggio, si accontenta del presente. Sì. Senti, allora così è stato, non ho mai chiuso. Non hai mai chiuso, due sale che continuano la loro funzione, e adesso arriva questo documentario. Come mai? Guarda, mi dispiace molto purtroppo che la verità venga recensita come documentario. In realtà preferisco, se ti capita ancora, di chiamarlo almeno documento. Documento, va bene. Questo film, che in realtà è un film, no? È un film che ha proprio il compito di documentare una cosa che altrimenti risulterebbe impossibile. Ecco, come hai incontrato questa esperienza e come hai deciso poi di filmarla? Ma l'ho incontrata per caso, perché il 25 aprile mi hanno chiamato in questo paesino, piccolo paesino della Sicilia, che si chiama Troina, arrampicata su una collina molto bella, ma ci volevano 2000 curve per arrivarci, e a proiettare il mio film Uova di Garofano, che sarebbe un film che io ho fatto sulla mia infanzia, in cui quella settimana, l'ultima settimana diciamo dopo la guerra, una settimana tutta l'Italia, da tutta fascista, è diventata tutta democratica. e questa settimana è nel mio film sotto gli occhi di 6 bambini, di cui il più piccolo ero io, che avevo 5 anni. E questo film me l'hanno chiesto chissà perché in questo piccolo paesino. E lì ho trovato questa realtà incredibile, ho trovato un palazzo degno di uno zar, ed era per dei disabili, dei bambini disabili. Sì. Allora ho cominciato a informarmi e ho scoperto questa realtà, che poi ho avuto il bisogno irresistibile di documentarla con un film, perché ho detto è assurdo che questa cosa non la conoscano tutti. È per questo che per la prima volta persino oso consigliare qualcuno di venire a vedere un mio film. Senti, una struttura tra l'altro che vive soprattutto dell'entusiasmo della comunità che ha intorno. Beh, soprattutto dei volontari. Sì. Ci sono 1000 persone che ci lavorano, e che è un buon numero, cioè, dei volontari. Cioè, nel film c'è persino una volontaria che è lì da 60 anni. Pensa uno che fa il volontariato per 60 anni, insomma. E comunque non so come dirti, credo che sia un'esperienza che dà energia a chi la guarda. Ecco, credo che il problema di questo film sia che emette delle energie molto forti, e siccome io sono abituato ad andare in giro per l'Italia a fare un seminario che si chiama Dall'impotenza alla creatività, siccome la creatività è energia pura ed è fantastica e viene tolta in genere dall'esperienza scolastica oppure dallo slogan malefico se non lavori non mangi, insomma quelle robe lì. E allora questa energia secondo me viene ridata alle persone magari che lo hanno purtroppo, dovendo lavorare magari 8-9 ore al giorno, hanno persa quell'energia lì che viene dalla creatività. Sì. Tra l'altro c'è un progetto di fare di tutta la zona di Troina una cittadella legata alla disabilità. No, il progetto, quest'uomo meraviglioso che si chiama Luigi Orazio Ferlauto, che ha dedicato tutta la sua vita, tanto che adesso ha 95 anni, e ovviamente 95 anni anagrafici, perché poi la sua mente è cristallina, il film documenta anche questo mistero, anche questo piccolo impossibile di un uomo che ha superato i 90 anni e ha l'agilità mentale, diciamo, che dovrebbero avere tutti verso i 22-23 anni. Sì. Senti Silvano, allora nella tua sala, immagino dal 23 gennaio è in programmazione questo? È in programmazione, sì, dal sabato questo in poi. Sai che però noi lì il concilio siamo aperti solo il venerdì, sabato e la domenica. Sì. Però diciamo che e ci sono due proiezioni alle 8:30 e alle 9:30. Perché? Perché il film dura un'ora, ma è una durata perfetta per questo film. Sì. E poi c'è il tempo, perché io ho pensato, siccome è fondamentale un po' rimanere lì a parlare con le persone, io dopo, quando esco dalla sala, che parto con la seconda posizione, sto lì un po' a parlare con quelli che hanno visto la prima. Certo. Io diciamo che se per caso qualcuno ha avuto l'esperienza di vedere Matti da Slegare, che è un altro film, diciamo, che mi compete profondamente, anche certo, se l'ho fatto insieme ad altre 3 persone. Però questo è un film appunto che può restituire un po' di energia a tutti. Sì. E soprattutto che dimostra che l'energia perfetta è presente negli occhi di qualsiasi disabile. Senti Silvano, c'è immagino un sito internet per la programmazione dell'Azzurro Scipioni? Certo, si chiama www.silvanoagosti.it oppure basta mettere Azzurro Scipioni in YouTube, che credo venga fuori il mio, sì, appunto il mio sito, e lì c'è tutta la programmazione. Bene. Del mese, diciamo. Allora, ricordiamolo, Il fascino dell'impossibile all'Azzurro Scipioni a partire da sabato 23 gennaio. Silvano, è stato un piacere, speriamo di sentirci presto per altre novità. Sì, io vorrei che Radio Onda Rossa ogni tanto parlasse del cinema indipendente, quindi... Lo facciamo sempre! No, è possibile, perché non mi avete mai chiamato, io sono l'unico vero indipendente che c'è in Italia. Beh, non sei proprio l'unico, dai! No, adesso parliamoci chiaro. Tu sai che ho scritto un libro intitolato Come produrre qualsiasi film senza denaro, sì, o per capirci meglio, senza spendere neppure un euro. Io in questo senso l'indipendenza la collego col non uso del denaro. Sì. Certo che ci sono persino, non so, in teoria persino Charlie Chaplin era indipendente. Però io parlo di un'indipendenza viscerale, quella che hanno gli alberi, quella che hanno gli opossum, quella che hanno gli scoiattoli. E va bene, e allora avremo modo sicuramente di risentirci. Vedremo. Allora sì che parlerete di cinema indipendente. Ok. Io ti abbraccio, Silvano. Ciao. Silvano Agosti dell'Azzurro Scipioni, regista del documento, come lo chiama lui, Il fascino dell'impossibile, in uscita in sala questo sabato 23 gennaio. Continuiamo a parlare di novità in uscita in sala. Stefano Massenzi di Lucky Red sulla distribuzione del film The Eichmann Show, in uscita in sala dal 25 al 27 gennaio, quindi una 3 giorni. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, grazie di ospitarci. Beh, un film importante, raccontalo a chi ci ascolta brevemente, Stefano. Allora, un film molto importante, sì, perché è un film molto contemporaneo, se vogliamo, perché è la storia del processo Eichmann. Anche noi l'abbiamo scoperto, perché non sapevamo, abbiamo scoperto vedendo questo film. Il processo Eichmann fu il primo processo mandato in onda in Mondo Visione, nella storia della televisione. Eichmann fu catturato dal Mossad israeliano in Argentina e fu portato in Israele per essere processato per i suoi crimini. Eichmann è praticamente l'organizzatore dell'Olocausto, colui che organizzava il trasporto nei campi, quindi chiaramente una figura di spicco dell'orrore. La possibilità di mandare in onda il processo è stata molto travagliata, è stata molto complessa, e aveva della competizione, perché era nello stesso momento in cui l'uomo andava sulla Luna e gli Stati Uniti tentavano di invadere Cuba, e vinse il processo Eichmann, perché portò, e qui è il ruolo importante anche contemporaneo del processo e l'interesse, la cosa molto interessante di questo film, portò nelle case di tutti l'orrore dell'Olocausto. Prima da loro si sapeva dell'Olocausto, ma non a livello che si è avuto dopo, no? La consapevolezza data dalle immagini. E dico che è contemporaneo perché con tutto quello che viviamo oggi, no? Con gli orrori del terrorismo, vediamo da osservatori che qualcosa che succede qui in Europa è molto diverso da qualcosa che succede in altri paesi più lontani, e quindi il ruolo fondamentale della televisione e dei media in questo. Ecco, proprio questo è un passaggio fondamentale che è già nel titolo, e quella parola show. E da una parte l'importanza di un documento di questo tipo e a livello di Mondovisione, dall'altra il rischio dei dati di ascolto, perché in contemporanea, come dicevi tu, c'era Gagarin nello spazio, c'era la Baia dei Porci a Cuba, e e questo processo, che era qualcosa comunque di statico e di estremamente drammatico, buttato in questa gara all'audience, che però insomma ha svolto una funzione fondamentale a livello storico. Ha svolto una funzione fondamentale, è quello il famoso ruolo che Rossellini aveva individuato nella televisione, no? Il ruolo formativo, il ruolo di formazione, il ruolo di creazione di una coscienza di una nazione della televisione. Allo stesso tempo c'è il rischio di quella che è la deriva della televisione su qualcos'altro, di una spettacolarizzazione come quella, esatto, che vediamo oggi in tutti i campi, sì, anche quelli più tragici, ai noi. Se la Baia dei Porci era, per così dire, qualcosa di azione e avventura, il Gagarin nello spazio era la fantascienza, qui c'era il dramma della storia. Il dramma della storia. Il film è molto commovente perché chiaramente la storia prevale, poi, no? Cioè c'è l'organizzazione, c'è la televisione, c'è questa corsa contro il tempo e contro l'audience, però poi c'è la storia che prevale e che commuove molto. E dietro le quinte, a dirigere le riprese, c'è una figura importante, un documentarista che era finito sulla lista nera del maccartismo negli Stati Uniti e che puntava molto sull'inesistenza del mostro, perché lui puntava invece a dimostrare che è nella natura umana, in determinate condizioni, la possibilità di diventare mostri. Sì. Allora, Eichmann è un personaggio molto inquietante. Chi ha avuto la fortuna di vedere anche un documentario molto bello fatto qualche tempo fa, proprio sul processo. Sul processo non aveva reazioni lui, praticamente. No, non aveva reazioni. Era mostruoso, quindi. Sul discorso del mostro ho le mie riserve, sì, nel certo, senso era certo, un mostro, certo. E l'altro elemento molto interessante del film è questo continuo andare sull'immagine di repertorio, e quindi da dietro c'è un attore che impersona Eichmann, però poi quando vediamo attraverso le telecamere, quindi anche cinematograficamente è molto interessante, c'è Eichmann vero, cioè ci sono le immagini del processo, sì. e quello fa molta impressione. Eichmann, sì. Almeno personalmente l'ho trovato sempre un personaggio molto inquietante. Ma il protagonista è veramente l'autore delle riprese di questo processo, come dicevo era finito sulla lista nera del maccartismo negli Stati Uniti, e lui punta anche la propria attenzione, il proprio tormento interiore sui pericoli legati al concetto di superiorità di qualunque tipo. Per esempio, quando si trova in albergo nella pensione dove dorme e fa una conversazione, più di una conversazione, con la donna che lo gestisce, che è reduce dai campi di concentramento. E c'è una conversazione che secondo me è molto indicativa anche di quello che è stato poi il futuro dopo il processo, ossia la nascita dello Stato di Israele. E lui dice: ma questa terra non era da sempre appartenuta agli arabi? E lei dice: sì, ma noi l'abbiamo voluta più fortemente. Ecco, questo mette anche sottolinea anche i rischi legati al, come dicevo prima, a qualsiasi concetto di superiorità. Certo. Mm-hmm. Sì, gli aspetti interessanti sono veramente molteplici. Sì, sì. Sono veramente molteplici. I personaggi sono molto molto ben delineati, e entrambi, sia il regista che il cosiddetto produttore, il, sì, loro conflitto, sì, la loro ricerca, e anche questo parallelo di cui parlavi tra lui, ebreo americano che non sapeva cos'era l'olocausto, esatto, e invece gli ebrei lo sappiamo benissimo, sì, e quindi sì, tutto quello che poi può essere un discorso sul Stato di Israele con il pensiero che ciascuno può avere, però insomma noi infatti lo proponiamo su una 3 giorni in tutti i cinema e poi chiaramente c'è un lavoro molto intenso per le scuole. Sì, sì, perché sì. Perché è un film molto importante per le scuole. Ecco, raccontaci un po' come è strutturata questa tre giorni allora, di proiezione. Allora, guarda, noi è qualche anno che diciamo il tema legato al giorno della memoria è un tema a noi molto, molto vicino, quindi abbiamo iniziato qualche anno fa con un bellissimo film che era La chiave di Sara, dove vedemmo sì, che sì. Il giorno proprio della memoria ebbe un risultato veramente molto, molto interessante. Quindi lo scorso anno abbiamo proposto un film più tipo il non so se vi ricordate il ragazzo col pigiama a righe, no? Il bambino col pigiama a righe, e si chiamava Corri ragazzo corri, che era la storia di un bambino che andava ad est perché scappava di fattoria in fattoria per scappare ai nazisti, ragazzino ebreo del ghetto di Varsavia. Quest'anno è un film più adulto, se vogliamo, e l'idea è appunto quella di offrire a tutto il pubblico per i tre giorni intorno alla giornata della memoria il film nei cinema, il film sarà presente in 200 sale e poi sempre per quei giorni e nelle settimane successive, come è stato per gli altri due, facciamo un lavoro come abbiamo sempre fatto noi come Lucky Red sui grandi film natura che abbiamo proposto, piuttosto che qualsiasi altro film che avesse una valenza didattica forte, una programmazione dedicata alle scuole. C'è un numero verde, le scuole chiamano e noi mettiamo praticamente in contatto la domanda con l'offerta, quindi l'offerta ricettiva dei cinema, no? Perché i cinema in tutta Italia hanno questa attività, chi più chi meno, dedicata alle scuole, con le mattinee dedicate ai ragazzi che vengono portati a vedere i film. Poi forniamo dei materiali di approfondimento che aiutano i professori, se mai ce ne fosse bisogno, nel discutere poi in classe queste tematiche. Allora Stefano, in sala il 25, 26, 27 gennaio in 200 copie, ma anche un discorso legato alle proiezioni nelle scuole, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi, a prestissimo. Ciao Stefano. Ciao. Stefano Massenzi di Lucky Red sulla distribuzione del film The Eichmann Show in uscita in sala dal 25 al 27 gennaio. Eccoci di nuovo con Antonietta De Lillo che dovrebbe essere in linea. Ci sei Antonietta? Eccomi qua, buon pomeriggio. Ben ritrovata, è un po' di tempo che non ci si sentiva. Tra l'altro sarai alla Casa del Cinema, che in questa puntata è entrata a più riprese perché c'è stato Giorgio Cosetti che ci ha parlato della rassegna Cinema Senza Barriere, della Camera Ardente dedicata a scuola, e poi c'è stata la Rete degli Spettatori con Valerio Ialongo per parlare della loro nuova programmazione, e ora ci sei tu che sarai presente in una due giorni di cui parleremo tra poco con Angela Prudenzi, Usa e Getta. Scarti, abbiamo perso la linea. Allora, è saltata la comunicazione con Antonietta De Lillo, ma la recuperiamo tra poco. Dicevo di questa tre giorni di incontri, Usa e Getta, Scarti, ricordi e rinarrazioni dell'immagine cinematografica nell'era digitale alla Casa del Cinema qui a Roma da oggi al 23 gennaio. Ne parliamo con Angela Prudenzi, che è curatrice insieme a Mario Sesti. Angela, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Devo però precisare una cosa. Precisa, in realtà noi abbiamo in corsa cambiato il programma, non abbiamo fatto in tempo ad avvisarti, perché abbiamo deciso tutti di comune accordo di eliminare la giornata odierna, la giornata di domani, venerdì, cioè la prima giornata, perché come sai la nostra manifestazione avrebbe dovuto svolgersi alla Casa del Cinema e si svolgerà sabato e domenica alla Casa del Cinema, ma l'idea di occupare uno spazio mentre nell'altra sala c'è la Camera Ardente di Ettore Scola, ci è sembrato veramente impossibile farlo per rispetto verso Scola, il grande artista che è stato, e insomma si doveva spengere la nostra voce. Okay. E quindi lo abbiamo fatto. Okay. E abbiamo condensato il programma sabato e domenica. Sabato e domenica. Non perdiamo niente, siamo solamente un pochino più stretti. Bene. Allora, Usa e Getta, raccontaci un po' come nasce l'idea e come avete lavorato. L'idea nasce riflettendo su un fenomeno molto molto consistente e importante che attraversa tutto il cinema negli ultimi anni, e cioè quello di film realizzati con delle immagini ritrovate, perché questo è il found footage. In questi ultimi anni sempre più autori molto noti, cito un caso, Marco Bellocchio, nel suo Vincere ha anche usato del materiale di repertorio, ma ovviamente è un terreno, territorio fertile soprattutto per i filmmaker, perché l'uso del digitale ha, come dire, democratizzato, sì, la possibilità di utilizzare le infinite fonti di immagine, tutto molto più semplice, più economico, e quindi i giovani cineasti, ma non solo, sempre con maggiore frequenza hanno deciso e decidono di utilizzare del materiale che può essere un materiale d'archivio, può essere un materiale giornalistico, può essere materiale pescato dalla rete, insomma le fonti sono infinite. Soprattutto quindi, per i documentaristi, e soprattutto grazie ai tanti archivi che ora sono a disposizione. È assolutamente, infatti noi in questi giorni abbiamo chiamato anche degli esponenti di archivi ovviamente a raccontarci qual è il loro rapporto con i cineasti, a cominciare dalla Cineteca Nazionale, ma ovviamente anche all'Istituto Luce, che sappiamo benissimo che l'archivio del Luce è ricchissimo e che oltre ad averci regalato film di montaggio, proprio film di archivio fatti esclusivamente con il materiale di repertorio e non rielaborati dagli autori, insomma in questi ultimi anni è sempre più attento a stare accanto a chi vuole rifondare le immagini, dandogli un senso diverso e nuovo. Su cosa avete puntato l'attenzione di questi incontri? Dunque, abbiamo cercato di fare un'indagine un po' a tutto campo, naturalmente il tempo è poco, perché un argomento come questo avrebbe avuto bisogno veramente di giorni e giorni di riflessione, e non a caso le università negli ultimi anni se ne sono accorte, insomma recentemente anche Roma 3 ha fatto un convegno su questo, anche su questo. Però la nostra idea è stata quella di mettere accanto sia studiosi che autori, insomma questa è stata l'idea che ha mosso Antonietta De Lillo, Mario Sesti, anche me nell'ideare questi incontri. E quindi noi passeremo da argomenti diciamo più seri, come cercare di fare una storia del cinema riciclato, perché poi è anche interessante in questi anni in cui si parla molto di riciclare, che ecco anche le immagini non vadano perdute ma che possano assumere una nuova vita, e partendo dalle storie però cerchiamo anche di riflettere a livello proprio teorico su che cosa significa il found footage, cioè poi che come viene utilizzato nella rete, che uso se ne può fare, insomma le persone a cui l'abbiamo chiesto sono molte, cito Bertozzi, Linguiti, Monreale, Pietro Montani, che è uno studioso di estetica, però anche tanti autori. La giornata di sabato ne vedrà accanto uno all'altro moltissimi: Costanza Quatriglio, Giovanni Piperno, Susanna Ricchiarelli, Agostino Ferrente, Daniele Vicari, insomma tanti tanti. Bene. E speriamo di riuscire, non dico ad arrivare a dare un senso al found footage, perché il senso è, come dire, è molto frammentato, perché poi appunto il fatto adesso che ecco sia così facile lavorare sulle immagini di repertorio rende anche rende anche più facile che si frantumi il concetto stesso di found footage, quindi sarà un percorso ad ostacoli, ma insomma speriamo poi alla fine di riuscire a capirne un po' tutti di più. Senti, questa 3 giorni di incontri produrrà qualcosa al termine? Ci saranno dei risultati fruibili in qualche modo? Beh, allora intanto noi tutti gli interventi saranno registrati. Okay. E, l'idea è quella effettivamente poi di riuscire a elaborare dei testi, insomma, che poi rimangano, ecco, questo è il nostro obiettivo. Vediamo come, se in collaborazione con una rivista oppure attraverso la Mare Chiaro Film e le sue newsletter, che comunque cercheranno di dare conto di quello che diremo in questi giorni. E in rete dove si può cercare per saperne di più? Dunque, intanto in rete, se appunto andate sul sito della Mare Chiaro Film, ci sono tutte le informazioni. Benissimo. Quindi quello è il primo passo. Ok. Angela, io ti ringrazio, un abbraccio e alle prossime. Grazie a voi. A presto. Ciao. Ciao. Angela Prudenzi, curatrice degli incontri Usa e getta, scarti, ricordi e rinarrazioni dell'immagine cinematografica nell'era digitale, alla Casa del Cinema, quindi domani e dopodomani, 22 e 23 gennaio. Abbiamo recuperato Antonietta dopo aver sentito Angela Prudenzi. Ci sei, Antonietta? Eccoti qui. Eccomi qua. Allora, dicevamo, la tua partecipazione a questa due giorni, ora è diventata 22 e 23 gennaio, e anche del film documentario partecipato Oggi Insieme Domani Anche, che ho avuto modo di vedere e che ho apprezzato e di cui magari parleremo, e anche del nuovo progetto di film partecipato che avete lanciato all'ultimo Festival di Torino. Allora, partiamo dal documentario realizzato, Antonietta. Diciamo che abbiamo aperto sempre alla Casa del Cinema la rassegna curata da Maurizio Di Rienzo sui documentari ieri. Sì. E ci sarà una replica alla fine dei due giorni di Usa e getta, il riuso proprio delle immagini nell'era digitale. E che cosa vogliamo dire? La Mare Chiaro, che è questa, la società fondata da me, nasce col film partecipato già nel 2010, il pranzo di Natale. Questo è cresciuto, mi sembra che le poche proiezioni che abbiamo fatto a Torino, perché il film è stato presentato a Torino e alla Casa del Cinema, mi sono sembrato che gli spettatori pensassero, ridessero, insomma hanno seguito con grande interesse. Questo per me è come dire, una cosa molto piacevole, perché non considero Oggi Insieme Domani Anche un mio film, è un film che è fatto da tanti altri colleghi, è partecipato, ci sono dentro immagini, frammenti di altri lavori documentari, insomma è un progetto lungo 5 anni che trova finalmente il suo compimento, e che lo trova nel momento in cui le unioni sono al centro del dibattito proprio politico, sociale. Quindi è un film estremamente attuale che uscirà ad aprile. Sì. Allora, si parla di amore e matrimonio e divorzio attraverso diversi casi sociali e anche diversi periodi storici. Anche attraverso, e soprattutto si parla dell'amore ai nostri tempi, che ovviamente è un amore variegato, un amore che da una parte paradossalmente guarda al passato e all'amore per tutta la vita, dall'altra parte guarda alle unioni omosessuali, ai giovani che vanno oltre il genere, cioè insomma è veramente un non prende una posizione, come giusto, ingloba tutti i tipi di amore. Ci sta dei frammenti passa due, dove ci sono due straordinarie donne che stanno insieme da 70 anni e sono proprio l'immagine dell'amore, diciamo. Ci sono una coppietta che invece ci fa molto, vedo che fa sempre molto sorridere, e che chiude il film, che Luigi Adorno e suo marito, che stanno insieme, loro stessi non sanno da quanto tempo, 50, 60 anni, e il film li lascia così in maniera molto divertente. Ma soprattutto per me è l'idea di ipotizzare un modo nuovo per fare un modo diverso per realizzare dei film e per stare vicino ad altri progetti. E proprio all'interno di questi due giorni di riflessione, più che di convegni o sul cinema e sul riuso dell'immagine. Domenica ci dedicheremo al film partecipato attraverso una serie di montaggi, tutte le iniziative che hanno diciamo che ci sono state in questi anni, e cercheremo di comprendere noi stessi e precisare che cos'è questo genere e questo modo di fare cinema e di stare vicino anche agli altri autori. Tra l'altro immagino che la diversità di linguaggi sia dovuta anche alla diversa provenienza ed età anagrafica dei partecipanti al progetto. Per questo sì, è un po' l'idea, appunto, è stato molto complicato in questi anni, ma ora ce l'abbiamo fatta, secondo me, raccontare il film partecipato, perché il film partecipato non è un film collettivo, non è un film a episodi, non è dateci le vostre immagini e noi le monteremo, ma è proprio l'idea di lanciare un tema, cosa che appunto abbiamo fatto al Festival di Torino, perché così quando finisce un ciclo ne rinizia un altro, lanciato un tema, questa volta sempre più complesso, partiamo dal transinatale all'amore e siamo arrivati all'uomo e la bestia, e qui ovviamente è un tema complesso che si può declinare in molti modi se ci venite a visitare appunto in www.fuoridacollea.it. In realtà qualche indicazione c'è, perché noi non pensiamo solo alla bestia fuori di noi, ma anche ovviamente quella dentro di noi. Tra l'altro è un progetto che abbraccerà un periodo triennale, se non sbaglio. Eh sì, un periodo triennale, proprio perché ci interessa nel frattempo diciamo aiutare, generare, stimolare, partecipare a produzioni di altri colleghi meno giovani, più giovani, insomma di chi vuole partecipare, come è successo nel transinatale in Oggi Insieme Domani Anche, un progetto che è durato in realtà 5 anni e che ha stimolato lavori come Forbici di Maria Di Razza, che è andato a una cinquantina di festival e ha avuto una menzione ai Nastri d'Argento. Ecco, il nostro progetto che da una parte vuole aiutare e sviluppare anche l'individualismo dell'autore, dall'altro invece gli piace stare insieme e creare un collage attraverso il riuso delle immagini. Certo, non certo. So se è stato complesso, ma spero di essermi spiegata. Sì, e se sì. No, venite domenica pomeriggio e parleremo di film partecipato all'interno di questi 2 giorni del riuso delle immagini, soprattutto per mettersi a confronto con gli altri, i colleghi in questo caso registi, e anche trovare soluzioni insieme. Questo mi sembra un ottimo metodo di lavoro. Esatto. E niente. E questo vediamo... è. Senti, questo è. Antonietta, allora ripetici anche i riferimenti internet per partecipare al progetto. Per partecipare al progetto si può andare sul nostro sito marechiarofilm.it, in particolare nella sezione fuoridalpollaio.it, lì c'è da scaricare il tema, come partecipare, eccetera, eccetera, o semplicemente si può mandare un'info a marechiarofilm.it o venire domenica. O innanzitutto vedere anche i lavori, perché da lì si capisce anche che cosa si fa. Insomma, beh, chi ci vuole ci trova. Antonietta, è sempre un piacere, speriamo di sentirci anche presto. Da parte mia. Grazie, buone cose. Un abbraccio, ciao. La regista Antonietta De Lillo sul documentario partecipato Oggi Insieme Domani Anche e il nuovo progetto L'Uomo e la Bestia. Eccoci in collegamento con Davide Barletti, regista del documentario Il Paese Dove gli Alberi Volano, Eugenio Barba e Giorni dell'Odin, che a Roma sarà in programmazione in 2 sale. Il Chino, però i giorni adesso ce li ricorderà Davide, e all'Apollo 11 dal 21 al 27 gennaio. Davide, ben ritrovato. Ciao, ciao, buongiorno a tutte le ascoltatrici, ascoltatori, ciao Federico. Come sempre io quando ho modo di parlare con i documentaristi prometto sempre di risentirci quando il documentario uscirà in sala, e così è stato anche in questo caso, perché il tuo documentario è arrivato alla sala. E ti chiedo subito, Davide, intanto, visto che tu ti occupi di cinema, come è avvenuto questo incontro con il teatro? Ma è avvenuto per due ragioni fondamentali. Innanzitutto perché il film l'ho diretto e l'ho prodotto insieme a Jacopo Quadri, che oltre a essere un grandissimo montatore per una ragione sua di storia personale, Jacopo, il suo papà era il grande critico Franco Quadri, e negli ultimi anni, che è scomparso da qualche anno, negli ultimi anni Jacopo ha deciso in qualche modo di ritornare sulle orme del cammino che aveva intrapreso il padre, andando a fare dei ritratti di film su delle biografie di grandi del teatro che in qualche modo avevano influenzato, diciamo, anche l'adolescenza di Jacopo. Jacopo aveva fatto un primo film su Luca Ronconi e voleva fare un film su Eugenio Barba. Io invece, da pugliese, Barba, Eugenio Barba, per chi non lo conosce, insomma, che è il fondatore dell'Odin Theater, figura appunto e compagnia leggendaria di questi ultimi 50 anni, è nato a Gallipoli, a 17 anni fugge negli anni 50, metà degli anni 50, e percorre una strada abbastanza avventurosa che poi lo porta appunto in Scandinavia, per la precisione in Norvegia, che nel 64 quindi fonda questa la compagnia. E nell'immaginario dei pugliesi la figura di Barba era una figura appunto leggendaria, un emigrante che in qualche modo era scappato da una terra bigotta, da una terra che all'epoca sicuramente non era la Puglia di oggi, e per andare a costruire quella che poi è una vera utopia, quella di una compagnia che in qualche modo è stato punto di riferimento per decine di anni, sia per gli spettatori ma anche per gli indios dell'Amazzonia, le popolazioni rurali del sud Italia. Insomma, è andata a costruire quello che poi è una delle cifre stilistiche del teatro di Barba. Sì. E quindi queste due ragioni ci hanno poi fatto unire, nel senso che un amico in comune, un documentarista che si chiama Alessandro Rossetto, ci ha messo insieme, e quindi abbiamo deciso di produrre e di dirigere il film su Eugenio. Allora, quindi due provenienze diverse, e come vi siete trovati poi a lavorare insieme, e cosa avete nello specifico, su cosa nello specifico personale avete puntato l'attenzione tu e lui? Ma innanzitutto ci siamo molto divertiti che oggi insomma è già una cosa rara, e penso che divertirsi quando si lavora, e forse perché eravamo anche produttori e quindi potevamo fare quello che volevamo. E no, è un film molto libero, è un piccolo film di cui noi siamo molto orgogliosi, però pieno di veramente grande energia, perché quella che abbiamo respirato lì a Holstebro è girato tutto in Danimarca, appunto in questo paese dove poi l'Odin ha stabilito 48 anni fa la sua casa, e nella provincia danese. L'abbiamo girato a giugno, quindi durante i festeggiamenti dei 50 anni dell'Odin, dove Barba aveva chiamato quello che lui chiama il popolo segreto, queste 500 persone che vanno da intellettuali ad attori a critici a gente semplicissima, a campesinos, che provenivano da tutto il mondo per celebrare insieme all'Odin appunto questi 50 anni di storia. E quindi noi ci siamo ritrovati in questo paese verde, con bambini che venivano da tutto il mondo, da Bali, ragazzi e ragazze di strada che venivano dalla periferia di Nairobi, saltatori, ballerini balinesi, brasiliani, le maschere dell'Odin, il popolo danese di questa piccola città che ormai è abituata a vivere con il concetto di altro e di strano anche. E cose che insomma in Italia un sindaco completamente illuminato, insomma è un paese, ecco perché poi l'abbiamo voluto pure chiamare così il film, è un paese che non può darti questa energia, e quindi questa energia si è trasformata, io penso che si riveda molto nel film, un film che secondo me mette proprio di buon umore, anche poi per chi non solo non è interessato al teatro, un film che si può vedere anche se non sei un appassionato di teatro. E poi noi ci siamo divisi, fondamentalmente eravamo una troupe molto piccola, quindi eravamo, io stavo in macchina, Jacopo poi l'ha montato, c'era il fonico e un'altra persona che ci dava una mano, quindi è stato molto, come dire, semplice. Poi abbiamo scelto proprio di seguire quello che accadeva giorno per giorno durante questi 15 giorni, e la gente che veniva da tutto il mondo ha contribuito a fare il film fondamentalmente. Senti, quali sono secondo il modo in cui l'hai percepiti gli elementi qualificanti dell'esperienza di Eugenio Barba e che si affacciano sul futuro al di là di questo cinquantennio di storia? Una grande capacità di immaginazione e di sognare e una anche che poi può essere quel confine anche magari che può pure non accettarlo, una grande determinazione vuol dire anche una grande autorevolezza, no? Sì. nel perseguire i propri scopi, che era quello di costruire questa compagnia che per 50 anni è stata insieme in un territorio senza il comune di Olsebro che passa i finanziamenti, questa cosa sarebbe impossibile, quindi questa grande responsabilità anche verso una comunità piccola, perché stiamo parlando di una cittadina della provincia danese di 30.000 persone, e questa capacità di aver costruito in 50 anni una casa aperta veramente a tutti, ed è una delle cose che balza agli occhi, passa veramente gente di tutti i tipi, e come dire, è sempre aperta e disponibile all'accoglienza, è una delle cose più importanti. E poi c'è il rigore di una persona, e anche come tutti i casi in cui c'è tra virgolette la figura di un leader carismatico, questa cosa è anche interessante, si percepisce nel film, perché poi ha anche le sue tra virgolette contraddizioni, no? Chiaramente. Ma questo è uno degli elementi proprio del film. Il film è fondamentalmente su una figura di un leader, su un'utopia che si realizza, su un autoritarismo creativo, e anche fondamentalmente su un'energia che viene proprio dal fatto che i protagonisti vengono da tutto il mondo e, come dire, sembrano quasi dei discepoli, poi in realtà non lo sono, perché è la gente più disparata hanno i propri progetti, che però in quel momento hanno deciso di stare lì. Il futuro dell'Odin al di là dei 50 anni è proprio quello, è il fatto che lui è riuscito a costruire una cosa. Barba c'ha 80 anni, chiaramente non è che vivrà in eterno, però la cosa interessante è che l'Odin è riuscito a costruire un qualcosa che sicuramente è proiettata verso il futuro e che andrà avanti. L'Odin scomparirà, perché nel testamento dell'Odin c'è che quando morirà l'ultimo attore della compagnia non si potrà più usare il nome dell'Odin, ma quello che loro hanno fatto in tutti questi anni è di creare questo che chiamano il Nordisk Teatre Laboratorium, che è un po' l'eredità, dove ci stanno veramente gruppi da tutto il mondo che vengono lì, che vengono ospitati gratuitamente, che fanno le prove e che hanno i rapporti con la comunità locale. Tutto questo rimarrà e penso che sia una delle cose più interessanti. E non ultimo, il grande lavoro d'archivio che l'Odin fa è una cosa pazzesca, è uno degli archivi più grossi del mondo sul teatro, sull'antropologia, sulle arti sceniche, è veramente una cosa pazzesca, io non ci credevo, ma quando l'ho visto è veramente immenso, e questo teatro oggi è stato donato all'archivio di Stato. E quindi, insomma, sono piccoli dettagli che però magari per noi italiani non siamo abituati, però, come dire, tutto questo lavoro è stato donato alla collettività, no? E questo penso che sia una delle cose, dei testamenti che l'Odin lascia anche per chi verrà dopo. Abbiamo detto della programmazione all'Apollo 11 e c'è anche il Chino, però quali, sì, quali sono le date? Allora, Davide? Da stasera il film lo potete trovare al Pigneto, appunto al Chino e all'Apollo 11, quindi 21, 22 e 23. Due spettacoli al Chino alle 8:30 e alle 10:30 e invece all'Apollo alle 8:45. Però l'Apollo 11 prosegue anche domenica, lunedì e martedì, quindi fino al 27 di gennaio. Bene. E niente, noi saremo lì. Oggi siamo sia al Chino che all'Apollo, ci dividiamo, siamo in due registi, quindi lo presentiamo in tutte e due le sale. C'è anche una pagina Facebook o un sito internet? Sì, come no, c'è una grande pagina Facebook che è piena di contenuti, di anche curiosità, eccetera, eccetera, che si chiama come il film, che è Il paese dove gli alberi volano, e idem il sito è www.ilpaesedovegliialberivolano.com. Queste sono, lì potete trovare un po' di notizie. Davide, un in bocca al lupo e a risentirci. Grazie. Presto. Ciao. Ciao, ciao a tutte. Ciao, ciao, ciao. Davide Barletti, regista del documentario Il paese dove gli alberi volano, Eugenio Barba e Giorni dell'Odin, al Chino e all'Apollo 11, all'Apollo 11 fino al 27 gennaio. È tutto per visionare il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Quest'oggi Tracce di cinema non andrà in onda. Tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming. Sull'home page del sito della radio c'è Ascolta la diretta. È tutto, buon proseguimento, a giovedì prossimo.